Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Altre due vicende imprenditoriali, oggi raccontate in prima persona con un filo conduttore, la natura. Una scelta verde per realizzare un'attività d'impresa che non solo rappresenta nuovi stili di vita, ma che sa adattarsi alle difficoltà, alla crisi e fa di necessità virtù. Scelte al femminile, come quella di Marcella Alberini, imprenditrice che ha innestato sull'attività principale, condotta insieme al marito, di produzione e vendita della pesca di Verona IGP, un agrinido. L'azienda sorge nella campagna di Ospedaletto di Pescantina, tra il lago di Garda e Verona, a due passi dalle sponde dell'Adige, in un'area dedicata da sempre ai pescheti. Oltre alla produzione e vendita della pesca, l'azienda offre un servizio alle famiglie, essendo stata riconosciuta come fattoria didattica dalla Regione Veneto nel 2008 e poi è stata trasformata in fattoria sociale per dar spazio al suo interno ad un agrinido che ospita bambini dai 9 ai 36 mesi. Beh, nasce prima la pesca, perché è da veramente tanti anni che l'azienda produce appunto pesche, per cui quella indubbiamente c'era già prima. Però la pesca non sarebbe durata se adesso non ci fosse questa realtà nuova, insomma, perché abbiamo un'azienda piccolina di 3 ettari e quindi indubbiamente la multifunzionalità per noi era d'obbligo. E l'idea nasce innanzitutto da un'esigenza familiare dovuta alla nascita della nostra bimba, ne avevamo già uno più grande, e poi quindi la mia necessità di reinventarmi un po' nel lavoro, perché non potevo più tenere quello che avevo prima, e quindi tenendo lei ho ospitato altri bambini, da qui appunto sono diventata tax mutter, cioè una mamma che oltre a occuparsi della propria bambina si occupa di altri bimbi. E la cosa che ci ha stupito fin da subito era proprio i nostri spazi, che erano molto attrattivi per le famiglie e le possibilità che avevano i bambini di sperimentare proprio la natura. La storia della sua iniziativa è passata attraverso momenti di difficoltà e momenti in cui ci sono state accelerazioni. Quali sono stati questi diversi momenti, come li ha vissuti? Le difficoltà iniziali era soprattutto di trovare una legge che ci potesse far muovere in questo mondo dei servizi per la prima infanzia, e alla fine ci siamo rivolti alle normative per i servizi appunto per la prima infanzia per darci una copertura almeno sul livello della struttura. Fattoria didattica, fattoria sociale e agrinido, come sono stati i diversi passaggi? Fattoria didattica appunto per rendere la nostra azienda agricola capace di, diciamo, di fare dei percorsi e capace di diventare appunto una fattoria che poteva ospitare bambini. Poi gli altri passaggi sono stati assolutamente, diciamo, normali, nel senso che essendoci poi state le normative dei servizi per la prima infanzia regionali, ci hanno assolutamente aperto la strada a quello che è stato la realizzazione dell'agrinido. Oltre alle difficoltà burocratiche, quali sono stati gli aiuti da parte delle persone che del network, della rete di amicizie, della società, che vi hanno dato un po' una spinta? Abbiamo trovato persone molto disponibili nella regione Veneto per quanto riguarda il sociale. Ci hanno assolutamente incoraggiato, a loro piaceva molto la nostra idea e quindi ci hanno consigliato appunto di seguire tutte le normative, e poi la cosa sarebbe potuta, diciamo, evolvere nel migliore dei modi. Certo. Poi anche Coldiretti comunque ha apprezzato molto l'iniziativa, l'idea, con il corso di fattorie didattiche. Com'è il rapporto con mamme, bambini e la natura? Un rapporto molto, molto stretto, nel senso che il bambino è natura, la natura sembra quasi bambino, nel senso che questi bambini nella natura ritrovano assolutamente una spontaneità, un gioco più tranquillo, un'esperienza, una crescita più armoniosa. Le mamme sono assolutamente felici di poter dare queste possibilità ai loro bimbi. Come avete fatto a far conoscere la vostra iniziativa? Assolutamente col passaparola. Noi fino a pochi mesi fa non avevamo neanche il cartello sulla strada, per dire, però abbiamo sempre avuto tanto accesso, perché appunto le mamme tra loro parlavano e quindi inviavano amici, parenti e quant'altro. I suoi figli quanti anni hanno e stanno con gli altri bambini? I miei figli hanno 12 anni e mezzo il più grande, 9 anni la più piccola, la più piccola è cresciuta nella Green Id, stanno con gli altri bimbi come aiuto adesso, insomma, aiutano la mamma, le educatrici. Ecco, i bambini che cosa fanno dalla mattina alla sera? Sono bimbi e quindi hanno dei loro bisogni, per cui abbiamo un'accoglienza al mattino che va dalle 7.30 alle 9, dopo di questa abbiamo la merenda alle 9.15 e un pranzo alle 11.30, cure igieniche al bisogno e prima e dopo pranzo. E riposo nel pomeriggio, e in tutto questo ci inseriamo con varie esperienze appunto fatte all'aperto, nell'orto didattico, nel pollaio, dai conigli, nel nostro giardino grande, passeggiate nei filari, ed estate tutte le esperienze legate proprio alla raccolta delle pesche, delle ciliegie. Stamattina per esempio abbiamo raccolto le fragole. D'inverno invece cerchiamo che la nostra natura entri dentro, perché il fuori è un po' più complicato, anche perché sono bambini piccoli, hanno bisogno anche di stare al caldo, al coperto. Un'esperienza molto bella dell'inverno è l'esperienza del fuoco, dove praticamente andiamo in legnaia, prendiamo la legna, accendiamo il camino che abbiamo in accoglienza, raccontiamo le storie e cuciniamo direttamente sul camino. Occuparsi di bambini e occuparsi, sì, di numeri e bilanci, no, sono due cose che vanno d'accordo o no? Assolutamente no. Nel senso che a me piace tanto la parte appunto dei bambini, dell'organizzazione, delle programmazioni dedicate esclusivamente a loro. La parte burocratica dei numeri cerco di delegare, se è possibile. La famiglia l'aiuta? Sì, assolutamente. Mio marito, per fortuna. Lei si sente di aver superato delle prove ed essere quindi diventata un'eroina, diciamo, dei suoi tempi, perché è riuscita a conciliare tutto, lavoro, famiglia, attività, eccetera? Per alcuni versi sì, perché comunque è un'impresa ogni giorno. Per quanto riguarda la crisi, ci sono stati dei problemi anche per voi? Abbiamo avuto qualche cambio di frequenza, quello sì, nel senso che da noi i bambini possono frequentare dai 2 a 5 giorni a settimana, e abbiamo visto che tante famiglie magari hanno ridotto appunto la frequenza e quindi un costo della retta mensile, e si sono fatti aiutare magari di più dai nonni o da familiari. Un'idea dei costi? Sono assolutamente in linea con i servizi per la prima infanzia. Un bambino che frequenta tutta settimana più il pomeriggio, quindi 5 mattine più 5 pomeriggi, paga 450 euro al mese, compreso di tutti pannolini, merende, pasti. La natura come risorsa d'impresa, competitiva anche rispetto alle produzioni massicce dei paesi in via di sviluppo. Donatella Di Cola conduce un'azienda agricola a Pagliano, in provincia di Frosinone, dove alleva in modo naturale farfalle e lombrichi e altri tipi di animali insettivori. Lo sbocco di commercializzazione è il mercato ittico, la pesca sportiva, di cui è riuscita a essere la principale fornitrice in Italia, battendo la concorrenza straniera. Inoltre, all'interno dell'allevamento, il ciclo biologico naturale è completo, in quanto parte dell'alimento, miele o cera d'api, viene utilizzato, mentre il residuo viene somministrato nelle lettiere ai lombrichi, che lo trasformano in humus, adatto a fertilizzare anche terreni idonei alle più svariate colture, ortaggi, piante da frutta, fiori e piante da travaso. E c'è anche un impianto nuovo a scopo didattico, con una casa delle farfalle e uno zoo annesso, dove poter mostrare ai visitatori gli splendidi animali della zona e le piante di varie specie di antica tipologia, oltre a illustrare da vicino la storia dell'allevamento. Questo settore delle farfalle, questa lampadina è nata da una grande disperazione, perché io ne vengo da un allevamento di apicoltura e quindi io facevo produzione di miele. Una grande disperazione perché abbiamo avuto una malattia in azienda che ci ha sterminato buona parte degli alveari e quindi ci ha messo veramente in ginocchio. Siamo rinati perché abbiamo pensato di allevare quello che noi combattevamo, la larva che, morta la peregina, mangia tutto l'alveare. Quindi prima era diventata la nostra nemica, questa farfalla che in natura vive proprio all'interno di queste arnie, che mangia tutto il prodotto interno dell'arnia, visto che c'era dietro un mercato nel settore della pesca. I pescatori usano questa esca per la pesca alla trota, e quindi la pesca al fiume, nel lago artificiale, quindi in acqua dolce. Ne abbiamo pensato di riconvertire tutta l'azienda usando gli stessi impianti. Come avete fatto nei primi tempi? Quanto tempo è passato dall'idea alla realizzazione? Allevando le api conoscevamo anche il nemico, ci abbiamo messo 4 mesi per impiantare tutto, perché questi sono animali che hanno il loro ciclo biologico di 4 4 mesi, andando veramente a cercare porta a porta i nostri clienti, perché comunque sono anche dei clienti settoriali, quindi siamo andati a fare la ricerca dove erano i laghi, dove erano i negozi di pesca, i negozi di uccellerie, gli zoo. Conoscete molto bene la natura e quindi i tempi, le attese anche per voi. Certo. Che cos'è che però vi ha aiutato, vi è venuto incontro e vi ha dato, diciamo, una spinta, e cos'è che invece vi ha rallentato, vi ha dato degli ostacoli da superare? Si coinvolge giorno per giorno il fascino della conquista, dell'entusiasmo, vedere tutte le fasi che ti offre la natura. Invece quello che veramente ci ha dato tante difficoltà è stato purtroppo delle collaborazioni con le università. Non si investe nella ricerca, essendo noi gli unici, gli interessi economici sono pochi, quindi automaticamente non si studiano nemmeno a livello universitario questi animali. E magari poi all'estero i nostri brevetti sono quotati alla grande, però noi che siamo qui non riusciamo nemmeno a contattare con i professori all'interno. E sono arrivati magari dei fondi dall'estero, dall'Italia? Noi abbiamo per il settore dell'agricoltura tanti soldi a disposizione, però per noi allevatori di farfalle, purtroppo essendo gli unici in Italia, la tabella che impone la Comunità Europea non rientriamo. L'iniziativa che state mettendo in piedi adesso, che è un obiettivo? Questo è un grande obiettivo, creare questa nuova casa delle farfalle, tutte le farfalle nel mondo. In più ci sarà questo zoo dove, in un percorso di trekking all'interno dei boschi, andremo a visitare gli animali della nostra zona, tipo il riccio, lo scoiattolo, la volpe, il tasso, il gufo. Insieme a tutto questo progetto, quello che sto cercando di fare è un rimpopolamento delle farfalle in Italia che sono in via di estinzione. Misteriose, con poca vita, ma dietro c'hanno tanto di quel fascino che vorremmo trasmetterlo. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.